Attenzione, Torino, cambio. Scappa, mi senti Marino? 1, 2, 3, prova. Sento forte e chiaro, va benissimo Torino. Come segnale tutto buono anche la radio? Sì, sì, pulita, qui arrivi pulitissimo, eh. Già. Va benissimo Torino. Ok, K. Bene, bene, l'ha preso con il Gio Maria l'apparato, piccolino. Già va bene, col microfono. Va benissimo, dai. Ok, Tony, ci vediamo stasera, dai. Sì, ti ringrazio, Mari. Dai, buona pedichella. Ciao, grazie. Ok, ciao, Tony, ciao, ciao. Ma non è... Prova, prova, prova. Prova, prova. Sì, 1, 2, 3, prova. Ora, ci domino. Manuele. Ebbè. Tony. Via, 1, 2, 3, prova, rimodulazione, bla bla bla bla bla bla bla bla. Vabbè, qua te l'ho già detto, vai benissimo. No, Manuele sta per entrare. Becca, da posto. Bene. Claudio. Eia. A Marino arrivo bene, lo sento e mi sente. Ti senti adesso Marino? L'avevo telefonato io, adesso ci faceva il pisolino. Sì, ma ti sente? Mi sente forte e chiaro. E allora non c'è problema, lascia quella lì, non se ne parla più, qua arrivi. La lunghezza più lunga è ottava, il resto ti sentono tutti, quindi non c'è problema. Ok. Ho tolto quel braccio che c'era, torno, adesso sono due pari indipendenti. Va bene, poi si sistema quella della 27 e si è a posto. Per pisolino, eh. Pronti, pronti. Manuele. Sì, Manuele. Ok, ma non mi intendi. Se parli prima, poi schiacci, io che non... Dice, trova, mi dai, bro. Mi senti? Sì, a me, tutto bene, sì. 9:20 qua, 9:20, ieri eri fondo a scala. Adesso di meno. Sì. Boh. Lo dico io il perché. Ciao. Lo dico io il perché. Perché l'hai spostata di posizione, capito? Ricordatevi che basta anche un metro in UHF per cambiare il segnale, eh. Ricordatevelo tutti, perché l'UHF purtroppo sono a posizione di riflesso, capito? Quindi può darsi che dove era prima l'antenna, dove l'hai messa prima, quella è una posizione migliore di quel metro che l'hai spostata indietro. Ma la distanza è sempre quella, è soltanto che è più in alto rispetto a ieri. No, no, Tony, ho capito dove era l'antenna, eh. Una è all'angolo dove c'è quel palo, tu l'hai spostata verso in più la palma, giusto? Era prima, col manico di legno, era dove c'è la palma. Esatto, perché c'era quella curva e ho messo anche quella. Perfetto, sappi che quel punto ti è favorevole per le UHF, ti è favorevole. Se è andato un metro indietro e cali di segnale, capito? Ecco perché io ti ho detto, lascia... e fai le cose provvisorie, tu ti sei voluto spostare direttamente, c'è da fare sempre le prove in UHF, noi è anni che facciamo le prove in UHF, capito? Anni, anni e anni di prove, le UHF sono toste, e per trovare le posizioni giuste bisogna fare prove, secondo me la prova dovevamo fare quel lato lì, ok? Fare le prove bene e poi metterla definitivamente lì con due cavallotti. Vabbè, comunque dai, va bene perché prima ero casino, adesso c'è solo... dai, ma piuttosto c'è molta differenza comunque. Sì, ma hai detto cosa a Manuele che a sbalzi e tu sei tic-tac, cosa venni? No, questo è come sono coricato, boh. E ogni tanto manchi di radio, boh, o sono io, Manuele? Ma è così, anche ieri faceva così. Forse come tiro il microfono sarà, boh. Cosa? Beh, come fa? È disarmo e spezzare, mi pare che è il problema, no io. Spina nera, buon pazzo. No, ma... no, guarda, questo passaggio fa tic-tac, bibri-bibri-bibri-ba. Cosa stai combinando, boh? Adesso ho fatto pro, boh, sono portante. Adesso sta uscendo bene, ma prima è aspettato o uscivi. Sì, perché adesso lo schiacciavo bene. Adesso mi sono alzato. Vediamo, te l'ho messo in sala l'altro. Cosa? Il portatile deve essere in sala, in cucina. Il ricevitore c'è in cucina, boh. Ah, vabbè, il ricevitore sì, che te l'avevo messo io lì. Ma ce l'hai collegato sempre lì, con l'antenna ferma. Oh, sempre l'antennino suo. E il casinato basilino, pure la sua antenna, oi. E vabbè, casinarito, lui metti quella gomma, quella letterato Claudio, lui metti, che è molto meglio, come recessione. Quindi, mi hai dato una nuova idea. La base magnetica sul frigorifero, e forse riceve anche meglio quel ricevitore. Certo che sì. Certo che sì, perché io quell'antenna ce l'avevo nell'avanzale della finestra, sotto una piastra di ferro, capito? E riceveva tutto, anche Alghero riceveva. Mi sa faccio proprio così, faccio. Mena, ci può dare provato il melone, quello retaca, quello giallo buono, anche me ne mangio due fette. Adesso ha smagnato, sa che sono con le serve, mamma mia, vi ha cenato a ricoca. Si c'è ecco? Con serve. Verme. Ehi. Con le erbe, già i... Cazzo c'è, un cocio. Oh, le erbe, cosa con le erbe? La sessione è capito col verme. Vedi, non ti comprendo, salsiccione con le erbe, salsiccione con le zeppe, come ti cazzo hai detto salsiccione? Con le serve. Con le serve. Cazzo, ma non intendi, gas? Non ho capito cosa stai dicendo, gas, sei tutto l'inghidento, gas, buh. Salsiccione con le serve, la serva. Ah, ho capito. È un po' pesantuccia, quindi. Cazzo, pesantuccia. Cazzo, se non cammino andare in mano mi si gaga in alto. No, salsiccione io lo mangio al naturale. Ho arrosto, ho integame con la cipolla e basta, non è buono di nulla, io lo salsiccione. È pesante sì. Vabbè che sono leggero io, ma vai Tony. Ho detto, quando mangi, ma quando parli, sembra che c'è la patata in bocca. E la patata in bocca. Uia. E tu qui gli ti giuro, il salsiccione col verme. Che c'è col verme? Io avevo quasi compreso cuscimi. Buon melone, cazzo, è buono. Ma scusa Emanuele, il salsiccione col cavolo avversa. Sì, col cavolo avversa, quello che usano anche per fare le favate, le metto. Cazzo di salsiccione converse, cazzo di aro. Fa vedere l'italiano, salsiccione col cavolo avversa. Ok, che è un'altra cosa. Lo capisce, no? Io ti ho aggiunto subito diretto, non ti ho aggiunto proprio la... Oh cavolo devi dire, perché ci sono tanti ingredienti per fare col salsiccione. E io credo che... È buonissimo, è molto buono, lo faccio anche io così, però non ne devi mettere molto, sennò è pesante. Gabbè, valori, cazzo, per carità. Ma che l'hai cotto, due, ti avrà detto. No, mia sorella, non è buona così, no, cioè. Mia sorella, da mia sorella, ma adesso roba di gozzi, mira. Uia. Cazzo, vi manco io in cucina a voi. Sono assaggi, io lo faccio molto, molto buono, io lo faccio a casa, faccio tutte queste cose, buono. Lo faccio anche con il country, praticamente con il wurstel, capito? L'avversa, cipolla, molto, molto buono. I wurstel, quelli giganti, dai, tipo salsiccia. Vabbè, anche io le faccio così, quando la faccio io, però. Ma lei l'ha fatta così, cazzerà un blocco io, mamma mia. Poi ne avrei mangiato due o tre piatti. No, no, capito. Tagli tutta con la forbice, la fai piccola all'avversa, no, quasi tritata. Il salsiccione lo apri e lo fai a polpuzza. Fai appena di soffritto con la cipolla e si rampi due bennetti. Ti fai un po' di pennette. Ma lo sai quanto è buono? È buono, sì. E beh, mangiato direi fumerone. Altre quattro pizze ho finito. Lascia la buccia, mi. Non ti mangia pure la buccia. No. con la madre. Adesso non mangiavo mica la novella. Lo vedo che non mangia nemmeno quelli, i mironi. Tu mangi 6 giorni con i vermi. Boh. 6 giorni con la verza, no, i vermi, verza, verze. Edo ha detto verze, ma io sono io compreso. No, prima ti ha detto con la verza. Da due cose ti ha detto le verze. Verza, ecco verza. Avevo compreso un cazzo di zeppe, io figurati. Chi ti ha compreso i vermi? Boh. Basta per dire, salsiccioni col cavo, boh. Poi ho già capito che ci vuole, non vado a gavola a fiore, no? Oh, anche salsiccioni con la gavola a fiore è buono, ma col cavolo verde è meglio. Io l'ho fatta una volta, salsiccioni, cavolo a fiore e olive verdi. Era buona la matessi. Invece qua, ce l'ha fatta la pancetta e il capocollo. Non era come dire cantenna a domenica, se va a disegnare. Ma la usi e mi ha fatto in onda. Beh, cazzo, io non lo so, la gente la facciamo assieme, subito l'ha fatta tutta a capo sui. Ma anche se la facciamo insieme, sempre lì andava a finire mia. Beh, ma a te come ti arriva, Ocla? Un segnale più forte rispetto a quella magnetica, niente di che. Eh beh, questo sì, quello sicuramente, ma di tanto o di poco? Un segnale da giudito, capito? Con quella magnetica arrivava a 5 e con questa 6. Cazzo sì, a domani mi arrivi a fondo a scala. Ieri mi arrivava a fondo a scala, ora è 9.20. Perché te lo sto dicendo, quella posizione più vicino alla palma, praticamente al centro della veranda, lavora meglio, messa all'angolo dove c'è quel picchetto, il paletto, dove c'era quella magnetica, perde segnale. Cazzo, va una centrale elettrica, hai chiuso? Ciao, va bene, dai, a me puoi scendere in lontananza, e vedi, ma io no, prima non mi sentiva, adesso mi sente, buono. Sentire, ma come ti intende, Baro? Prima non mi sentiva zero, adesso mi sente, e dice una cosa. Capita, non hai vinto nemmeno uno scherzo. No, ma va bene, Emanuele, dai, l'importante ci sentiamo, intanto miracoli non se ne possono fare con questi portatili, eh. Toglietevelo dalla testa che le UHF, vi ripeto, sono molto, molto toste rispetto alle UHF. Noi, come radioamatori, anni che facciamo prove, ma anche sui ponti, agganciare un ponte in UHF è sempre più difficoltoso rispetto a quelli UHF, capito? Perché è molto tosta la UHF, quindi se ci sentiamo è già un miracolo. Siamo a lunga distanza, va benissimo così, no tu che di nulla. Ma io non devo toccare nulla, e chi viene e chi vi rimane. E tu ce l'hai sul tetto, Manuè, quindi cosa vuoi di più? Io so cosa c'è nel gomino, cosa sul tetto. Cosa? So cosa c'è nel gomino, cosa sul tetto. Tu pure vai al gomino. Lo gomino? Ma compreso qua. Ehi, col gomino, tutti col gomino stiamo andando. Gomino e portatilino. E anda beh, ci sentiamo, va bene. Pensa, la roba è vita e fotoscala. Se ti salivo con 5 sita, avevo ragione, il capita che basso. Non ho visto, non è manco un segnale vero, poi siamo vicino, dai. Che cosa? Con me ce l'hai o con Emanuele? Emanuele? Noi siamo vicini, sì. Siamo vicini a Danassi, Danassi a casa tua. Aspettate un minuto che arrivo subito. E io un attimino, ma non è che ho preso il filo di ferro che serve la 50 che deve legare una pianta a chi sono il gane viene solo dei crocenti, un attimino. Eia. Io ho detto, ma 27 non ne vemmo più, tutto finito. Cos'è qua? Ma tu come mai non state più entrando in 27? Io cosa ne so, non va mai nessuno. Da che gente vedeva sì? Basta farmi da noi, non è che vedeva sì il gomizio, no? Andiamo in 27, aspettavamo a Torino, andiamo in 27, non c'è problema. Sto andando nel 23, ho capito, non è che la città è sempre in obbligo, questa deve essere una secondaria, primaria sempre 27, se no va in abbandono sta 27, già non venisci uno. Questa si può entrare quando c'è il tempo cattivo, che è un bel guadagno, nella 27 si può entrare in occhi. Si conferma, va bene. L'importante è non ci siano temporali, perché è la stessa cosa della 27. Se sta piovendo e c'è tempo brutto va bene, ma se c'è temporale io ho lo stacca antenne automatico, giro, che siano V, direttive, dipoli, verticali, tutti staccati, eh. Sì, ma c'è staccato la BL. No, no, io non ne stacco BL, io ce l'ho stacco antenne, elettronico, è sopra, la centralina è sopra il tetto, giù c'ho solo il commutatore di alimentazione, io metto quello nel neutro, il relè sopra sgancia e non passa niente. Ah, poco un peso. Ma le bucciate giocano. Guarda, io sinceramente quando ero su a Milano ce le avevo le antenne belle alte, avevo anche una bella zona e c'avevo un cortile grande, ma mano, cazzo di mi vasi la rucchini, mangiavo pure in quel terrazzo lì. E nell'angolo avevo messo questa antenna qua, avevo messo anche di puli, ci avevo messo, con un amico mio radiomatore. Beh, eppure trovo nella, quando curia i droni, guarda che cazzo era buonissima in capo, eppure non li ho mai staccati, sempre accesi, attaccati. Sì, vabbè, ma non è. Qua se entra fa danno, fa danno forte, io ho le direttive, ho sei antenne sopra il tetto, non è che è una giuna. Il cavo di discesa è unico, c'è il commutatore elettronico su, alimentato da giù, quindi c'è un impianto fatto a regola d'arte, come il commutatore della Meritron americano costa 250 euro, non è che gli costa 50 euro, capite? Quindi c'è un unico cavo di discesa, i cavi attaccano tutti su e io commuto da giù elettronicamente, però per commutare devo dare alimentazione, capito? Alimentato, quindi una volta che io stacco l'alimentazione, c'era 220 attaccata, una volta che io stacco è 220 12, stacco, metto in neutro e sopra sgancia, va, c'è un relè che sgancia e non passa niente. Me lo posso immaginare che non passa nulla. Tony, sì. Sì. Stava dicendo, Claudio, se passiamo sul 23. Sul 23? Ma dalla 27? E allora, 23 era 27, no? Ok. Manuele. Attenzione, Gian Maria. Che? Ehi, Tonino, come mi ascolti? 1, 2, 3, prova. Buonasera Tony, va bene Tony, è più bello di così, va bene Tony, fortissimo. Asco, ma non si spegne questo affare, è sempre acceso rimane. Come? Ho capito Tony. Aspetta, interruttore per spegnerlo questo apparato non ne ha. Sì, devi pulsante sinistro, abbassalo a dentro e si spegne. Quello di sinistra, il primo giorno, la V è sbarra M. Ehi, per spegnerlo abbassi l'interruttore sinistro, spingilo e riaccendi la stessa cosa, prova vai. Capito, perfetto. Eia, a me pure quando l'ho presa mi sembrava una cosa strana e poi ho detto ma sì, ho provato già così, bisogna spingere così. Oh va bene, già cosa c'hanno che il PTT, il microfono, bisogna spingerlo bene, perché se no ti dà lo scatto della portata e me lo tira alla radio, capito? Bisogna spingere, anche il mio fa così Lo so, infatti devo spingere forte, se no non mi copiano. Sì, ho messo anche stamattina, ho messo anche l'antenna più in alto, quella che ha base magnetica, l'ho tolto, ho messo quella che ha fatto Manuele, tipo grande e piccola, è perfetto, va bene. Comunque stai uscendo bene, Tony, a voi abbastanza, perfetta, ma lo so che funzionano bene con i lì, capito? Poi se la tenne a posto, lo sai, esci bene, qua arrivi fortissimo, e poi... Cazzo, già ce l'ha detto anche Claudio che già va bene, vai. Beh, ok, continua a fare quello che sto facendo. Ci sentiamo, Giovanni, grazie. Ciao, stai bene. Ok, sto ascoltando su 23, quanto io non posso entrare qua, sicuro di disturbo, capito? Però vi ascolto, dai, passo su 23. Ti finisco quello che sto facendo e poi rientro. Ok, Giovanni, ci sentiamo, ciao. Ok, ciao. Thank you. a me bene mi senti, e a me bene mi senti, me la intendi? Marie. Manuela mi senti a me. Marie, mi senti, sì? Io ti sento, ebbene pure ci sento, è Manuele che lo sento. Emanuele! Ehi, a te. Forse. Oh, ma anche io lo intendo, la gente giù di... Prova a vedere. E guarda a vedere. Adesso ti lascio la portante. Beh, non so se quello lì è il rumore sottofondo. Perché esattamente sta uscendo male? No, se mette il microfono normale, nonno, è perfetto, Manuele. È perfetto il microfono normale, mentre invece con questo MC60 fa questo difetto. Non lo deve fare perché la portante deve essere muta. Sì, ho capito, Giovanni, però tra un microfono normale e un microfono amplificato cambia la differenza. Oh, Manuele, ciao Giovanni. Ehi, tu non me l'hai detto. Praticamente quel difetto che cosa ti fa l'MC60? Mi guarda a vedere, Claudio. Qua, adesso metto la portante. Ma tu ho questo rumore che sento? Sì, cioè, si sente questo rumorino in sottofondo. Sembra un rumore di ventola, qualcosa, boh. Ma va bene, non è roba di che stai uscendo male. Ascolta, To, ma stai usando il 60 tu? Ehi, c'ho il 60 attaccato qua. Ok, anche io. Allora, sotto il 60, sotto, c'è un tastino. Ce l'hai indietro o in avanti? In avanti. In posizione in, quindi, giusto? Sì. Ok, sopra in alto, l'impedenza c'è 50-500. A quanto ce l'hai? 50. A 50 ce l'hai, quindi è in avanti? Sì, in avanti. Non sento nessuna preamplificazione. La mia la senti la preamplificazione? No, già lo devo punire a 500. No, te la abbassa. Se abbassi a 500 te la abbassa ancora. Se abbassi l'impedenza. Capito? È questione di settaggio della radio. Boh. Non lo so come si fa. È facilissimo, To. È facilissimo. Devi entrare nel menu. Cercare mic, ok? E guardare in che posizione ce l'hai e devi cercare di aumentarlo. Ma chi è? Esatto. Allora l'ho messo a 4. Troppo basso, a 7 lo devi mettere. Ma chi non mi l'ha fatta abbassare, che la dice che era troppo basso. Non è alta, aumenta, 8. Problemi io non ne sento, difetti non ne sento, ti sto ascoltando con la radio grande, non ne sento, La radio va bene, non è amplificata però. Se la vuoi preamplificare, da 4 devi portare almeno a 6, per essere amplificata. Se la vuoi tenere così, è una radio normalissima. Io ad esempio ce l'ho a 6, il menu. Aspetta un attimino, che ci proviamo. Io ce l'ho a 6 il menu, penso che non sia, che non dia fastidio, no? Giovanni, molto alta è. No, non è che disturba, però si sente, la portante dovrebbe essere muta, capito? Mentre invece si sente uno scricchiolio come quando c'è il vento, capito? Acqua del genere, però poco, non è che disturba, capito? Sì, però se si porti dentro qualche rumore di vento, che cosa, Giovanni, capito? Sicuramente è quello, ma difetto io non ne sto sentendo nel microfono, Allora, ho fatto la prova, ho fatto quello di Lucca, l'ha messo ed è perfetto, mentre col MC60 suo lo fa. Evidentemente è una questione di microfono, capito? Perché ha fatto quella prova, capito? Quello di Lucca non lo fa, mentre che quello suo lo fa. Ascolta Giovanni, ma Lucca mi sembra che ce l'ha diretto sulla radio il 60, mentre Tore c'ha l'adattatore, così è. Qui questo non lo so, Tore, se c'ha l'adattatore oppure no. Vediamo un po'. L'adattatore c'ho. Allora ragione Giovanni. L'adattatore tende a fare queste cose. Se lo metti diretto non te lo fa. Ho provato col cavo diretto anche. E lo fa lo stesso. Come fai a usare il cavo diretto se uno è Kenvo dell'altro ICOM? Se cambiano le connessioni. Si è provato quello di Luca, ho provato io. Con cavo diretto. E lo fa lo stesso. Lo fa lo stesso nella tua radio. però il tuo microfono da Luca non lo fa, allora è un problema di radio. Lo so, no, glielo dovevo lasciare, glielo devo. Otto! Hello. Allora, tra l'altro il microfono l'MC 60 l'hai messo sul tuo e l'hai provato e non lo fa, metti il tuo e lo fa. È questione di microfono, Otto. Sì, è questione di microfono, Ecco, quello che sto dicendo a Claudio, capito? Perché, Claudio, ha dato il microfono, Luca, il suo, e l'ha messo sulla percolatore e non lo fa. Mentre invece mette quello del Tore sul suo e lo fa. Così che è sempre questione del microfono. Esatto, allora è un problema del 60. Il 60 ha questi problemini qua, capito? A volte non esce, si abbassa la modulazione, allora lo devi sollevare e spostare quel tastino che c'è sotto, avanti e indietro, capito? Oppure toccare l'adattatore di impedenza che c'è da 50 a 500 e torna normale. Può darsi pure che quel microfono voglia aperto e data una pulita sotto dove c'è il PTT e il lock, capito? Data una bella pulitina lì dove c'è il circuitino, capito Tò? Dallo a Luca e te lo fai pulire, già lo sa lui quello che deve fare, perché può darsi che sia quello, siccome lì c'è una resistenza in quel circuitino, può darsi che stia per partire quella resistenza e ti fa questo rumore, capito? Infatti, è così. E Naggio 4 MC60, io dall'86 che uso l'MC60, Naggio 4 esperimenti. Perché l'MC60 va molto bene con l'ICOM, anch'io ce l'ho un 60 con l'ICOM e con lo IAESU. E vanno molto bene, però ogni tanto bisogna fare manutenzione, perché all'interno hanno questo circuito di preamplificazione che basta un po' di polvere, basta un po' di ossido, inizia a gracchiare. Se è quello che si sente, va pulito bene con la trielina, pulito bene, una spruzzatina di spray per contatti e lo richiudi. Infatti, fatto così, pulito. Va bene. Capito, Emanuele? Va bene l'apparecchio, capito, l'hai visto, anche qua va bene. Se bene, non ho detto che non va bene, se bene anche con l'MC60, solo che non c'è amplificazione, ma va bene lo stesso. Non disturba, però se fa quel lavoro che sta dicendo a quell'altro, è meglio farlo, perché potrebbe essere anche quello lì, capito, tutto lì, che ha fatto, datti da fare, piano piano, vai. Lo guardi, lo apri e glielo pulisci bene con quella trellina, vedrai che dopo passa, dai. Ma vedo che ti gai male, una cosa alla buccia. E te lo dà la Luca e te lo fa lui, capito? Così che è più esperto lui, dai, e per cui già lo può fare. Bene, riprendi qua. Ehi, piano piano, lo apri, lo gira da testa a terra, c'è il coperchio, piano piano. Non spruzzare roba sui contatti elettrici, lo pulisci col pennellino, con la trielina, lo lasci asciugare e poi gli dai una passatina di spray per contatti, vedi che non invade più il rumore, fanno manutenzione. Ma non è il discorso preamplificazione, non ce l'ha, perché il Mickey Gain ce l'ha a 4, se quello è il Mickey Gain e lo porti a 6 come lo sto usando io, va bene, capito? Va benissimo alla grande, però va bene anche così se non vuole amplificare. Allora, io quando ce l'avevo quella radio lì, io ce l'avevo il tribanda, ce l'avevo uguale, solo che il suo è un 4 e quello era un 3 e il Mickey ce l'aveva 7, 8 e c'avevo la saponetta, quello normale suo, col coso inserito, col compressore e sia una bomba. E già lo gioco io, ne ho due 4, io dici, 2 tribanda e 2 quadribanda, quindi lo so, conosco perfettamente, capito? Lui c'ha il compressore disinserito e la preamplificazione ce l'ha 4 il Mickey Gain, quindi è chiaro che è bassa, ma non è bassa, è normale, va bene. Se lui inserisce il compressore e porta la preamplificazione a 7, è troppo forte col 60, devi usare il microfono normale. Capito? Col 60 va bene così, no, non c'è problema. Aumenta il coso del Mickey Gain, Otto. Sono provando a pulirlo. Ma lo userò, è come il corso normale, infatti non si sente quel cricchio che fa, capito? Sì, perché se lui, vedi, se lui adesso aumenta la preamplificazione alla radio senza attaccare il compressore, vedrai che non lo senti più quel rumore. Sì, ma infatti è così, claro. Se aumenta qualcosa, ovviamente anche qualcosa del compressore, non si sente più, no. Sì, perché la preamplificazione copre il rumore, capito? Ma che tempo a capirlo, dai, e piano piano riuscirà a fare tutto quello che ci vuole. Così è tutto, piano piano. Infatti quello che sto chiedendo, piano piano, datemi un po' di tregua. Tregua. Sì, Manuel, vanno molto bene quelle radio, però ti ripeto, io non... con i quadribanda non ci vado molto d'accordo, perché essendo un radioamatore ho bisogno di avere tutto separato. Io ho i due gemellini della ICO 275H e 475H, che l'ho messo da parte perché ho l'820H, addirittura, che è quello che è uscito dopo, sempre base. E c'è il duplexer collegato con la 510, dove a uno, quello in V, c'è la va in V, e quello in U va in U, e quindi con due microfoni ICOM SM20, e quella è una cosa. Le HF, la stessa cosa, capito? Direttiva, tre elementi, 10, 15 e 20 su una radio, il dipolo 15, 20 e 40 sull'altra radio, capito? Tutto separato devi avere, altrimenti non riesci a capirci un accidente. Se uno diciamo in... se tu stai parlando in VHF col quadribanda, non puoi parlare in UHF. Se stai parlando in VHF, non puoi parlare in HF. Hai compreso? Una cosa puoi fare con il quadribanda, non è che puoi fare tanti cose. No? Hai una radio che ti fa tutto, ma al momento non ti va di nulla, che solo una cosa puoi trattare. Se invece ce li hai separate, come ce li ho io e tutti i radioamatori, allora fai tutto in diverse bande, hai tutto sotto controllo, capito? Sì, quello lì, claro. E beh, trovato, vai tu. E come dice Claudio, oggi era caro, così che... singoli, vero Claudio? Beh, Giovanni, è normale, no? Io ci ho provato inizialmente, no? Avere una radio, e tu dici, una radio fa tutto, ma poi mi sono capezzato una fase nuda, perché se i miei colleghi radioamatori erano in HF e in VHF, io stavo da una parte o stavo dall'altra, loro invece ce l'avevano in contemporanea. Dice, ma come cacchio fate? Perché noi abbiamo le radio separate, ma io non aggiungo un azzurro, e allora ti devi organizzare, e ho fatto così. Avevo il TS2000 io, non avevo un giocattolo, bellissima radio ancora oggi. L'ho venduta e mi sono comprato le radio separate. Vabbè, da un radioamatore a un CB è tutto un'altra cosa diversa, capito? Per cui o usi questo o usi quell'altro, magari un radioamatore è diverso da qui sono, capito? E lo gioco, però anche CB è la matesigogia. Se uno è CB ed è appassionato anche delle HF, si va un 440 che fa vedere il 27, non può ascoltare le bande amatoriali, Gio Mari, capito mi hai? Allora deve per forza prendersi un'altra radio, è sempre così. Infatti, si vorrebbe un'altra radio, ed è meglio, però, vabbè, to cerca di fare quel lavoro adesso e vediamo un po', dai, fatelo fare con tranquillità. Usa il microfono normale per adesso, quello là glielo dai, insomma, fai pulire bene, dai. Ma guarda, io preferisco, secondo me è meglio usare il microfono suo originale, qualcosa inserito e col Mickey al massimo, anche a 7 lo puoi mettere il Mickey, ed è una canonata, meglio dell'MC60. Ma magari lui lo fa per comodità, capito, Manuele? E io i microfoni da palmo li odio. Io ho 4 MC60, anzi 3 MC60. E tutti gli altri sono tutti microfoni da tavolo, ognuno per una radio, capito? Ce n'è 2, 4, 6, 7, 8. 8 microfoni da tavolo c'ho io. Ti mando la foto. Già lo so che ce li ho, me l'hai fatto vedere, già lo so, cazzo, sono tutti microfoni mobili, lo so, ma è inutile che se c'è il microfono da buio ce ne mari. Fai come ho fatto io, Manuel, infatti, Ho mollato tutto, boh, ho il microfono normale, se va va, se non va se la piglia ai rubaesi, già va bene un microfono normale. Per noi, per chiacchiere fra di noi, cosa vuoi? Cazzo, però per spiegare, vabbè, se uno deve fare magari lungo percorsi, allora è già un altro discorso, ma è meglio il normale, vai. Somari, io guarda, io ho usato sempre quelli palmari, sempre quelli palmari. Quando ero su in continente stavo usando l'MC60 col 450, che c'avevo anche il 450 anche io, il 440 e ne ho avuto microfono anche io, però preferivo più usare i microfoni normali, palmari che quelli da tavolo. Sì, Manuel, ti ha già mandato la foto, mandala a Gian Maria a vedere se mi c'è un microfono, se ha già un microfono. Uno per ogni radio ne ho io, no, sì, sì, ma per voi è diverso. È diverso però per noi, se non hai il microfono da tavola, addirittura c'è chi ce l'ha a pedale, perché mentre stai facendo collegamento in HF o se fa vedere, devi scrivere pure, devi stare al computer, mettere il nome nativo, mettere il log, e non puoi stare con una mano a divare, mentre vai, allora metti il lock nel pulsante, nel microfono, e parli, e stai parlando e scrivendo, capito? Per quello io c'ho il microfono da tavola. No, io li ho fatti fuori tutti, no, uso solo microfoni normali, boh, basta. E ne ho avuto anch'io, ne ho avuti, cazzo. Però li ho buttati fuori tutti, non mi interessa più di amplificati. Basta, è normale, ecco, per noi è così, o perlomeno per me. Magari per gli altri non la pensano così, voglio uscire più forte, vabbè. Lasciamoli fare. No, beh, Giomario, sempre, io anche col 440 c'ho l'MC60, ma da anni, da quando è uscito, no, non c'ho altro, c'ho tutti i microfoni normali, li uso anch'io, sul 756 della ICOM, quello che va 15, 20 e 40, il 756 Pro, quello lì io c'ho il microfono normale perché esce talmente bene che non c'è bisogno di mettere il preamplificato, capito? Però Vision Radio, che se non gli dai un po' di preamplificazione esci in mari e quindi ha bisogno di un po' di spinta, mi capito? Quello sì, infatti, quel tipo di apparecchio è così. Ma vediamo un po', Tore. Allora, adesso con quale sei? Con il microfono normale sei, no, con quello da tavolo. Ah, grazie. Ah, io ti sento bene anche con questo e con quell'altro, capito? Per cui solo quelle scricchiolio che non è che rompono, non disturba perché non è forte forte, però se riesci a eliminarlo, perché la portata deve essere muta, mica siamo vicino, sei lontano, capito? Per cui deve arrivare la portante muta, muta pulita, senza nessun fastidio, capito? E per cui è meglio farlo fare, capito? Tutto lì. Vai Emanuele. Giovanni, dove ti ha mandato la foto di Claudio? Adesso guarda. Guarda Giovanni, se ci sono microfoni. Ti ho fatto proprio la linea dei microfoni, senza il radio. Il radio da voi è una fragogia. Se vuoi ti faccio mandare anche quella da Emanuele. Ma per dirti, no, io ho tutti i microfoni da tavolo, perché se no mi viene male a fare attività, come fai? Assolutamente, è un casino. Comunque io lo sento bene, attore, dai, non c'è bisogno di amplificare, tu. No, sta uscendo bene, solo che se vuole può inserire il coso del compressore e dovrebbe uscire ancora meglio. Sicuramente, se inserisce il compressore sicuramente esce meglio, alla grande. Come inserirlo, tu? C'è scritto mi, dove c'è sotto, ci sono tutti i cosi, comp, le cose delle memorie, dove c'è scritto comp, tu pigili e ti appare la scritta. In teoria, quando è su queste frequenze, in teoria dovrebbe essere già in automatico il compressore. No, mi sembra che in automatico vada in banda laterale. In FM, in AM lo devi inserire e disinserire tu. No, io ce l'avevo e andava in automatico ed era come quello di lui, però era la sua banda. Ora qua non me lo dà il compressore. Sinceramente non me lo ricordo perché io l'ho avuto tanti anni fa, 4-5 anni fa, non di più, capito? però non me lo ricordo questo passaggio. Io lo inserivo, lo disinserivo, poi alla fine l'avevo lasciato inserito. E qua non mi esce il compressore. Devi andare sul menu, Otto. Sul menu devi andare, c'è scritto comp, comp. FM non me lo dà. In AM non te lo dà? Com'è che non te lo dazzi? No, in AM me lo dà, in FM non me lo dà. Com'è che non te lo dà? Per forza te lo deve dare. Forse ha ragione lui, mi Emanuele. In FM non... AM SSB mi sembra che sia il compressore. Sì, ok, ce l'avevo anche io, te lo dava anche in FM il compressore, per forza. Allora controlla, io non me lo ricordo, non voglio insistere, Emanuele. Boh. E beh, Gio Mari, visti gli hai i microfoni? Andi posso vindi? Io... Vai, cra. Ma noi a voi c'è una grossa differenza anche, capito? Ehi, me da sentati, in linea, così è, così deve essere. No, come certi, ce ne sono che insomma è un macello, che non si recupera di niente, mentre il tuo è abbastanza a posto, bene sistemati e va bene, complimenti veramente, dai. No, Gio Maria, io qua mi ha fatto tutto Giulio a me. Le basi, tutto, lo sa, io sono ordinato, non si vede un cavo, no, non c'è niente. Proprio nulla, il radio venne un bel. Già, guarda i microfoni, quanti microfoni ci sono tutte le radio messe come devono essere messe, non una innanzi all'altro, ci sono i piani proprio fatti apposta, ha fatto tutto Giulio, capito? Vabbè. Così è, e anni di sacrifici ci vogliono, a razza di hobby che avemmo, che è troppo costoso, è diventato maledizione. Beh, adesso col tempo, no, quel bancone, quel banco che hai fatto è una cosa molto, molto ben fatta, almeno ce l'hai tutti ben messi, per cui è una cosa bella, vai. È una cosa bene, rimane pulita più insomma, li vede bene, ecco, non è che poi mettono una cosa uno sopra l'altro come certi ne ho visto, capito? Non va bene, ecco. Per cui come hai fatto tu è l'unico sistema quello lì. Non vede niente, vede solo gli apparecchi e i microfoni, boh. Sì, per forza, cosa devi dire? No, se poi inizi a mettere mondezza e balle varie, no, quella è una parte praticamente che si vede delle radio, ma come vedi poi sono tutte messe bene, no, non fa. Io ho la mia stanza proprio, ho la mia stanza, vedi, si vedono anche i cavi che entrano dalla finestra, ho proprio la mia sala radio. Perciò o fai rigosi fatti bene, o se no passi tutto ammontonato, meglio lasciar perdere. Allora, trovatelo questo compressore. No, non me lo dà qua. In FM non me lo dà. Bisogna andare in AM e o USB. Manuè, piegavelo tu come te, io non me lo ricordo. Otto, guarda che te lo dà anche in FM il compressore. Te lo deve dare anche in FM. Te lo deve dare sia in AM, sia in banda laterale e sia in FM. In tutte e tre le posizioni te lo dà. Forse c'ha un'altra voce, Manuè, dagli la voce giusta, Non entrare sul menu, non deve sbagliare, entra sul menu e gli dà tutte le indicazioni del menu. No, nel manuale mi dice che in FM non lo dà. Ah, io non ne dico, sa di to. Quanto ci scommetto? Tu quanto ci giochi che in FM te lo dà il compressore? Io ci scommetto 500 euro adesso subito. E sei davanti Claudio e Gio Maria, ti faccio vedere che in FM ti dà anche il compressore. Io ci scommetto 500 euro, adesso. Non dire perché ce l'avevo anche io. E lo trattavo in frequenze. Prova piano piano, to, prova. E può darci magari ci hai messo qualche frase diversa e non te lo dà. Se prova a fare come tanto Manuele, perché lui ce l'aveva. Dici che dovrebbe saperlo. Io dico, io no, io ce l'avevo, ma non l'ho mai toccato. Del tracatoio d'assaggio, e così l'ho dato senza, non ne voglio sapere, ma te la mi ruga buchi sti cose. Te non mi dati manco il marchesino, che bisogna che provenne, non me lo dai in FM. Vabbè, beh, Manuè, vuol dire che quello lo ce l'ha allora. Manuè! Adesso vi mando la fotografia e vi faccio vedere che c'è scritto compressore in queste frequenze qua. Io mi ricordo che me lo dava da tutte le parti, Ne sono certo, perché io lo usavo anche in FM, in VHF, in UHF, avevo sempre il compressore inserito, la scritta c'era sempre, comp. Oh, Manuè, ma tu... quello che avevi rimane la fotografia. Adesso gli ho mandato anche la foto a Claudio, quello che c'avevo. E guarda la foto, Cla, se ti sto dicendo balle. In FM c'è anche il compressore. Sì, me lo ricordo perfettamente, sia nel tribanda che nel quadribanda, però evidentemente lui non riesce a inserirlo. È una cassata, è una gagada punirlo. Magari toccando fa un errore, non glielo dà, capito? Piano piano vedrà che riesce a trovarlo, dai tu, piano piano. E sbagliando dici che si impara, e così dovrebbe essere fatto, vai. Ciao Mari! Poi ciao Ru, buonasera. Dormitoci. Già sono dormito sveglio, Tore. Vedi, c'è anche Claudio, Tore. Gigo. Sono appena arrivato dal mare, da 10 minuti fa. Adesso mi lavo, mi cambio e me ne esco. Dai, riprendi Gio Mari. No, a te non lo sento, avanti. Riprendi tu Gio Mari. Che sei giorno, tu? Fatela ghiacciata la doccia. Ci sentiamo dopo, dai. Vai tu. Dove vai? Cercando tu. Al solito, ma forse non mi intende a me. Comunque vai tu tranquillo che lo devi mettere per forza il compressore in FM, per forza, perché te le dai in tutte e tre cose, banda laterale, AE in AM, FM, USB e LSB, te lo dà anche su VW, te lo dà. Ma no, io, ciao Lu. Io non me lo ricordo sinceramente, perché era tanto che non lo uso, capito? Però mi ricordo che aveva tutto, funzionava tutto e ti dava tutto, sia in SSB che in AM, in FM, capito? Adesso vediamo se Tore riesce a metterlo a posto. Guarda, Ottra, che ti ho mandato la foto in FM, guarda se c'è scritto compressore. Sì, adesso la guardo. No, ma non ho dubbi, Manuè. Non è che ti gioco di zendi. Io non mi ricordo. Sì, comp, sì, esatto. Vedi, c'è scritto comp, vedi. Tu devi scorrere, ma ottore, dove c'è scritto M4, Vox e DAP, no, che quello di tono, ti deve apparire la scritta lì, comp, schiacci e lo digiti. Allora qua mi dà su M4, Vox e DUP, lì io schiaccio, però non mi dà quello. Vai avanti, non c'è solo M4, c'è M1, M2, M3, M4, cercalo, sempre lì. Esci da M4, vai su M2, vai su M3, c'è, per forza c'è comp, e ti appare anche la scritta. Vuol dire che M4 comprende solo quel tipo di impostazioni. Vai su M2, guarda a vedere cosa c'è su M2. Su M2 le dovrebbe dare il filtro. Esatto, infatti lo stavo dicendo io, M2 mi pare che erano i filtri. Vai su M3, su M1, guarda, ma la scritta comp deve apparire come appare DAP, Vox, tutto. Su M4, aspetta un attimino. Fai un buco di luce M4, va su M4, vai avanti. Ah, che ci dovrebbe, che le dovresti mettere il compressore, per forza. Tore! Hello! Dormitasi! Dormi due! E beh, Claudio! Cosa? Beh, Claudio, mi senti Claudio? Sì, a voglia. Ascolta, ma non è che c'hai un tubo d'alluminio che devo piazzarmi l'antenna? No, l'ho dato a Tonino. Mi è rimasto lo dappo della gazzarella e boh. Vabbè, dai. Allora pongo una dappaletta al posto di un tubo, andava. Sì, alla grande. Puoi pulire tutto. Ma ancora la avevo la brittella. La brittella l'avevamo finita. Allora avevamo l'orologio termostatico. Eia. Tore, io facci sognare. Mi sa che per stasera non sogni. No. Manuel, vai da Tore, sistemaglielo tu, vai. Sì, già l'impara, vai, dopo già l'impara. E beh. E beh, tutti nudi, so. Eia, qua sono io. Roberto, fatta vedrai. Allora, a me mi dà il compressore di dinamica e non me lo dà in FM. Compressore di dinamica? C'è scritto comp? Comp, è così. Però solo in USB e in AM esce. Non voglio insistere, però guarda, se Emanuele ha detto che funziona, a me mi ha mandato la foto, funziona anche in FM. Allora c'è qualche problema da vedere lì. Capito? Non lo so. Allora lì, lo fai vedere a Emanuele, che lui ce l'ha avuto e lo conosce meglio di te. E se c'è qualche altra funzione da inserire, non lo so. Non me la ricordo io. Io mi ricordo che funzionava. Certo che funziona, qua. Funziona, funziona. Esce per puro su queste frequenze. Mandi la foto, Emanuele, a Tore. Sono mandata. Allora, se non ci riesci, dillo a Luca, Luca è già corrente in queste cose, te le fai guardare, te le fai mettere da Luca, dai. Sì, ma infatti, Tom, non ti mette la cosa in mezzo, se non ve la vai, te la vedi da Luca, lui ce l'ha, te lo mette a posto, se no c'è Emanuele anche, non c'è problema, capito? Comunque c'è, io mi ricordo che c'era, boh, vabbè. I batti di uscita quanto ce li hai, Otto? L'ho sceso a 4, l'ho sceso, no, 4, mi pare a 5 l'ho messo. A 5? 5 con 30 watt sto uscendo. E un bel si scendi. Ascolta, comunque, vai su M4, dovresti trovare il display davanti a te. M4, schiaccia menu e poi ti dà gli altri, filtro, balle varie. Poi schiaccia ancora, ti dovrebbe uscire il coso del compressore. È una gagada, eh. Allora, io ce l'ho come questo, come qua in figura, ce l'ho io così. Ecco, adesso tu schiaccia il TS. TS sarebbe? Il pulsantino sopra che c'è, il TS. Che sopra c'è mode. È un pulsantino dove c'è scritto TS, piegami dove. E l'ha già detto, sotto al mode, sotto al pulsantino di mode. Si sposta la freccetta. Perché vuol dire devi impostarlo diversamente dal menu. Sì, il TS ti sposta la freccetta per la frequenza, per i decimali. Vai quello di sotto, quello di display. Insomma, ha spostato su S1. Su S1? Sì, lo sposta. Da M4 è passato a S1. Vai avanti a vedere se trovi il compressore su S1. Poi per tornare su M4 schiaccia di nuovo display e vai in automatico su M4. Sì, ti dà torna la frequenza. Ti dà torna l'impostazione dove eri prima. Perché M4 è l'impostazione principale. E poi automaticamente lo puoi inserire e disinserire come vuoi il compressore dal pulsantino, da F2. No, le dà la mela con questa ruota della macchina. Allora ti funziona dopo, tutto l'automatico fa. E me è tutta una cazzata, che vedi già quello dei i pulsanti in tutti i roghi e non venne. Lascia stare, Tò, lascia stare e fallo fare da chi lo sa, da chi sa dove mettere le mani. Perché se no tocchi, tocchi, tocchi, incasinaggi tutto il programma, chi? E te lo vai sistemare da Edo, ma già c'è il compressore, futti di. Io se già c'è in AM, l'ho provato. Tore! Ehi, sotto la roda della macchina d'oia non vanda. Magari sotto la roda della macchina mia, sì. Poi una brittella anch'io nel mode. Boh, una brittella la attacchi alla cosa dell'antenna, poi boh, una tapparetta, una casaretta, e vedrai che sono in chiesa in mode. Sì, anche. Non mi pare di me, che mi si scappa della risa. Vedi così, io poni una casella di giochi sotto, non funziona. Vedi così, gli sto, è meglio una casella di cemento fatta con un gallino, direttamente a calcestruzzo. Ah, vabbè, che più bello. Lo sai cosa sto pensando, dottore, invece? Che non ti entri il compressore perché devi spostare la modalità da FM a SSB. Se lo metti in USB, nell'SB ti entra la scritta compressore. Prova. Provando sto. Prova. Ah, c'è un buon feng. No, è una radiosiria. Atta! Bubu, andiamo muoveremo. Bubu, io mari, bubu. Un attimino, E infatti è così, Claudio, è così. E boh, è la gente che me lo regalava, Occa. Hai visto, Tocca, così come ti ho detto io. Allora, Manuè, perché io me l'ho ricordato adesso, la modalità compressore è non entra in FM, devi spostarti o in AM o in SSB, la imposti e poi vai nuovamente in FM. Allora la imposta in SSB e poi imposta la frequenza. No, solo la modalità deve spostare, anziché FM deve mettere in USB o LSB e ti entra in automatico il compressore, lo imposti nel menu e poi ti sposti nuovamente in FM. Ah, io in caso lo mettevo io, sì, in AM lo disinserivo e in banda laterale andava in automatico e in queste frequenze qua mi andava sempre in automatico senza metterlo io. Che vuol dire che nell'impostazione era già impostato, però per apparirti la scritta devi andare in SSB. Apparsa Tieto. Sì, infatti è così, devi andare USB, devi andare tenerlo, lo premi, però il coso, aspettava che lo faccio direttamente. No, fallo Gas, fallo. Lo vai e lo lasci inserito, ok, e poi ti sposti nuovamente in FM col mode. E senti la modulazione da una all'altra, da spento o acceso. Sì, voglio mi ammattare la birugava, ma carità, te la giocavate proprio baiccio. Oh, Gas, abbassate, la si può bere il capo, buonissimi uriali. No, buh, basta un normale, c'è andare là. Sì, Gio Maria, chi lo dici? Io faccio una radio, praticamente l'ultima che ho preso, che è un HF, però un HF è praticamente digitale, diciamo, no? Dove non c'è rotella di VFO, devi fare tutto tramite un menu, capito? Addirittura c'ha il GPS, puoi inserire il numero telefonico e telefonare con la radio, poi fa mille cose, capito? E sto diventando scemo, mi ha dato la mano Gianfranco a me l'altro giorno, perché lui c'era simile a quella, perché non riuscivo a togliere il sistema, no, quando vabidavo e c'avevo un becco, la portante calcata, mi annullava la trasmissione, non riuscivo a trovarlo questo coso, e me l'ha trovato Gianfranco, capito? Quindi gioco, a volte giornate intere sto cercando di capire il funzionamento di questa radio, immagina già di due, la Basenza anche VV. Ma è così, così digitale, se, sono tutti, la maggior parte sono così, per carità, ma io l'ho dato anche per quello, perché, oh, non ci riesco, non sono riuscito a niente, allora ho preso e l'ho dato, non mi interessava più, ma tre di Birugabu e non riesci a chi si voleva fare io, così che la giornata da Ghidughi, che era competente, in 3-4-5 minuti ha fatto tutto, si può immaginare. Però, Tore è giovane ancora, così che prima o poi riesce a trovarli queste cose, dai. Io no, cosa vuoi? Io ormai faccio un gabba bubuglione e cla. Guarda, è inserito adesso, Cos'è inserito? Adesso è inserito. Entra così, però per spostarla in coso devo metterlo più alto, devo andare in AM. Esatto, devi fare tutto, AM e SSB, anche per quanto riguarda il Mickey Gay, devi passare nuovamente in modalità AM oppure SSB, portare su la preamplificazione e poi ripassare in FM. Perché in FM non ti fa fare niente. Troppi passaggi, ho claro così, troppi passaggi, è un casino così. Così è quello, Manuele, quadribanda io mi ricordo che è così. C'erano queste diversità da tribanda, e uscì, devi far uscì, perché vedi che il compressore lo devi inserire in modalità USB e poi passare in FM. Ma me la buchi una pure a me, là. E cosa, di Britella? Ma dici a radio, ti ho una catena di giodi, mi la radio. Fermo così. Ascolta, ma come te la vuoi, coperta o scoperta? Ehi, pongo un coso, un talone di sopra, se non fa tappi. Vabbè, te la do così a tappi allora. Ehi, anni tu vado, posso dare un talone di...